Metti la cella, Luca. Ah? A me ha detto Luca. No, a Luca sto chiamando. Te l'ascolto avanti in radio. Non ti capisco, Luca. Yeah.